Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Va bene così, Willy? Sono più vicino al mic, Sì, più sei vicino di troppo così. vicino al mic. Più vicino di così, Lo se stai muore. mangiando? Fermo, fermo. È costato troppo. È costato troppo. Però è Evita. saporito, Non l'avete condito prima. Sì. Qui ci fanno segni e cenni troppo brutti da riproporre. Oh, che bello, si sente questo rumore. Basta, è l'ora che togli il tuo portatile che fa schifo. Ma perché dici così? Lo togliamo, E sì. quale mettiamo? Non lo so, non mettiamo portatili. No. Io come faccio a fare il programma? Non me ne importa niente. Il presidente è cattivo. Sono cattivo. Ciao, sono il presidente e sono cattivo. Mamma, mamma, c'è il presidente cattivo, aiuto! Bentornati a Non è mai finito, non finirà Non mai. finirà mai, sappiatelo. Bene, bene, bene. Intanto abbiamo perso Tommaso. Cioè, che tra l'altro ha detto, ti richiamo io, non ti preoccupare. È morto. Ci dispiace. A noi dispiace, però. Era un bravo Senza ragazzo. portatile io non ci sono. Oddio. No, no, ci sei, non ti preoccupare, c'è il portatile. Però connettiti, Tommaso. Tommy, Tommy. Ma ci non si capisce niente. Cioè, veramente, questa è Radio Verità, non è Radio È Ciclette. una puntata verità. Se Sì. volete posso ritornare a ieri, facciamo Power Chords. Ah sì, Non hai so se lo fatto. sapete, non so Ah, se lo sapete ieri. ho ascoltato l'ultimo pezzettino, sento la tua voce che Radio a salutava. colori, giustamente. Sì, ebbene sì, ieri ero Power Chords, oggi Chiamami su faccio Radio. Ovo! È proprio radio diretta questa. Se ti connetti su Ovo, io ti chiamo su Ovo. Va bene, Va così. bene. Intanto c'è qualcuno che esce, chi sarà Sì. mai? Tutto ok, Non tutto sappiamo, ok, tutto non ok. sappiamo. Bene, intanto noi siamo sempre vicino al microfono. Sì. Perché lei è qui? No, in realtà è perché io ti ho chiamato e ti ho detto per favore, vieni. Davvero? Sì. Credevo che fosse perché, non Perché so. eri bravo. Sì. Ma l'hai pensato. In realtà sì, sei bravo, presidente, noi ti vogliamo bene. E quindi? Grazie. Però tu non Sei l'unica l'unica nota che di l'ha. colore felice. Blu, giallo, la radio a colori. Esatto. Quale colore sono? Quale nota di colore rappresento? L'indaco. Quel colore strano, indaco. Che colore è l'indaco? Indaco, tipico colore. Ma è tipo sul violaceo? Cos'è l'indaco? Una discussione sul colore indaco mi Te lo mancava. spiego Me lo quando compriamo spieghi una maglietta, quando poi dopo siamo te lo. offline. Sì. Perfetto. E qua c'è Tommaso che dice che mi sta chiamando, ma io ho il programma acceso e non mi pare che mi stia chiamando, ma se lui dice Vabbè, ciao Tommaso. ciao No, Tommaso. prendo il tuo posto. Noi siamo gli spacciaserie. Benvenuti a tutti. Ah, quindi visto che Io noi sono tu Tommaso. sei spaccio. Sì. Dunque, spaccio, di cosa parleremo oggi? Non lo so, dimmelo tu. Io sono arrivato qui dal lavoro e sono abbastanza stanco. Ti dirò. È una puntata un po' strana, è tra il serio e il faceto. Tra serio e Sì, faceto. parliamo di famiglia. Famiglia. Famiglia. Sì, però famiglia, diciamo, nelle serie TV è un po' vago, perché nel senso ogni a parte House che diciamo vive da solo e anche adesso comunque anche lui ha questa parvenza di famiglia che si sta costruendo, spoiler, spoiler, spoiler. E diciamo quasi tutte le serie hanno o la famiglia nel titolo, vedi, No Ordinary Family, ti ricordi la nostra puntata sui supereroi, come ti è piaciuta? Tanto, Ecco, tantissimo, è vero. ecco, appunto, a parte queste qui ci sono tanti telefilm a partire, che ne so, tipo Lie to Me, tu lo segui? Lie to Me? No, Chi? non lo segui. È quello con Tim Roth, Chi? quello che ha fatto La leggenda del pianista sull'oceano, non ti ricorda niente. È Ah, lui, il pianista sull'oceano. esatto, lui è protagonista di questa serie in cui lui è il dottore che svela le bugie, cioè lui dal volto. Dai tic che tu hai con il corpo, riesci a comprendere se stai dicendo la verità o se stai mentendo e quali sono le tue sensazioni, le emozioni che stai provando in quel momento. Ah, sì. Ebbene, è anche lì, nell'ultima puntata, quindi super spoiler, però non racconterò più che altro. Sì, Bravo. analizza una famiglia americana, appunto, con il cui padre è poliziotto e c'è la moglie che ha timore del padre, il figlio che È è lo un po'. Spirito Santo, tutti quanti. Tutti, e quindi. E quindi ecco, c'è appunto questo il dottore che analizza un po' i meccanismi in cui funziona questa famiglia per capire se la figlia piccola è stata veramente rapita oppure no, oppure che cosa è successo. Ma a prescindere da questi singoli episodi, da queste serie, noi oggi vogliamo parlare di famiglia con il padre single. Col padre single, Esatto. famiglia, Sì. col padre single. Sì. Infatti, la prima serie di cui parleremo, cioè nel senso, sono famiglie numerose. Oh, nel frattempo abbiamo recuperato Tommy. Sì, sembra che stiamo per recuperare Tommy in qualche modo. Attenzione. Sentiamo un po'. Tommaso, ci senti? Noi ti sentiamo. Buonasera! L'abbiamo sentito, era ora. Oh, evviva. Posso smettere di fare il Tommaso? Ok, me ne vado. No, resta. No, non andartene, Leo. Il Klug. Ah, cosa? Dunque. Allora, quindi parliamo di famiglia con padre single. Ne parleremo con due serie in particolare. Che ma sono... abbiamo anche uno psicologo qui in famiglia. Qui, Tommy. Non so. Tommy, Tommy è un tipico psicologo. Della... Guardagli la faccia. Sì, infatti. Io sempre, sì. Vedi? Lui è sempre psicologo. Asserisce di essere psicologo. Beh, e noi gli crediamo. Oh. Porca miseria. E dunque, le due serie di cui parleremo. Perché non mi credi, Leo? Come no? Ti sto credendo, non vedi? Guardate tutti quanti che faccia sto facendo. Nella radio a colori, la faccia di Leo. Sì. Bene, quindi se mi fate finire questa cazzo di frase. Vabbè. Le due serie di cui parleremo sono appunto Single Father, che diciamo un po' si spiega da sola, e poi Shameless. Senza vergogna. Yes, vedi com'è bravo in inglese il mio ragazzo. Sì, talking about... Ma Leo, English. Ma quanto sei international? Lo so, ho studiato ad Oxford. Bene, adesso però, siccome noi vogliamo salutare anche Willy che ci segue dall'Olanda. Ciao Willy dall'Olanda. E ringraziarlo per la sua sigla. Ciao Willy! Grazie, grazie Willy per la tua fornito. Sigla. Per il momento però, siccome... Non siamo completamente d'accordo su tutta la linea della... Si stanno scannando, io ho visto volare coltelli. Ecco, cioè, magari va modificata ancora un po'. Ecco, mandiamo ancora la nostra vecchia sigla. Non se l'abbia male, Will. Questa triste vecchia sigla. Sì, veramente triste, però prima o poi la cambieremo. È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Eccoci qui tutti pronti per mangiare un panuozzo? No. No. Che brutta sigla. Ma quella ci abbiamo. Leo, non denigrarla. No, chi la denigra, anzi. Cioè, che alle tue spalle c'è il creatore della sigla. Ah no, ok. Ma perché lui si è scritto la sigla di Happy Days? No, veramente. L'ha scritta lui. Certo. Ok, abbiamo uno scoop. Qua abbiamo il creatore della sigla di Happy Days. Che musico, signori. Sì. Buonasera, sono il creatore della sigla. È lui. Oh, salve. Salve, buonasera. Il creatore calabrese. Ah, complimenti. No, sono americano. Non è americano, si sente dalla voce. Sì, lo parlo bene l'italiano, poi non lo parlo male. No, anzi, questo è tipico accento di Bologna, no? Sì, esatto. Sì, stavo con un bolognese in casa, no? Allora mi ha insegnato il bolognese, si sente? Dall'americano? Sì, Allora, sì. L'ha insegnato le tipiche espressioni, no, bolognesi, sì, per salutarsi. Sì. Ho bellezza di un compare... Leonardo, per esempio. Ti ha insegnato. Sì, si dice così a Bologna, vero? Sì. Significa, non lo so, saluti e baci, no? Se non sbaglio. Sì, giusto. Ecco, vedi, allora. Tipico, che bello, vedi, quanti ospiti internazionali questa sera. Infatti. Questo. Nell'altra sigla potevamo avere Renato Pozzetto come ospite. Lo so. Lo sai, Lo so. E poi un non magie, un non meglio identificato uomo. Pozzetto sarà per la prossima tatta. E poi un non meglio identificato uomo che se la prendeva con Renato Pozzetto. Sì, dalla voce di Ferruccio Amendola, se non sbaglio. Chiediamo conferma al nostro ascoltatore olandese. Sì. No. Ci risponderà presto. Nel frattempo passiamo oltre e cominciamo a parlare appunto della di che? Prima serie TV che analizziamo questa sera. Ma io stasera volevo parlare, non so, di taglio e cucito. Non nella trasmissione. Sì, Leo, che mi devo attaccare un bottone. Vedi, lo so. Vedi, parliamo della vita da single qui, ormai forzato per 3 mesi, di Tommaso, no? Visto del padre single. Tommy, padre Leo, single. Insegnami a attaccare un bottone. Tommy, ago e filo. Metti il filo dentro l'ago e poi vai. ma non modo... l'ago dentro il filo. No, perché se metti l'ago dentro il filo ti pungi ogni volta che cerchi di metterti no, il filo di certi boccioni. No. No, il filo non si rompe. Stiamo scherzando. Mi è scappato. Stiamo scherzando. Voi potete gridare, tu Tommy puoi gridare. Sì, Tommy, grida. Tu grida tutta a casa cagliola. Puoi gridare, noi no. Ok, vabbè. In ogni caso. Griderò! Griderò! Non la abbasserei, cioè, vorrei dirvelo. Io mi spavento ogni volta di queste cose. Vabbè, parlerò più piano allora. Comunque, in questa serie il protagonista sì. è Illumine. Si chiama il personaggio Dave Tyler ed è interpretato da David Tennant. Qualcuno conosce David Tennant? David Tennant. Lo non conosce Doctor lui. Doctor Who, ragazzi, il quiz è vinto da Leonardo. È il penultimo Doctor Who. E nonché ha partecipato anche in Harry Potter, il calice di fuoco. Ah, pure? Sì, sì, sì. Vabbè, sì, io sì. lo conosco come Doctor Who. Sì, sì, è lui comunque. Nella parte di chi in Harry Potter? Del Doctor Who, anche lì. Chiaro, no? Tipicamente. Tipicamente Doctor Who in Harry Potter ci sta bene. Ma infatti. Oh, allora. Quindi. Ah, poi è anche un attore da teatro. Fatto da Shakespeare, teatro. Sì, da teatro, proprio sai quando lo metti là e lui... Cosa ci sai fare? Fa fare Shakespeare. Ah, bene, beh, bravo. Faccia bravo. Tutto Shakespeare. Sì, sì. E lui si mette lì. Mi si mette lì, prende un braccio. Fa Teleton, come mai assunta, e fa tutte queste trasmissioni su tutto teatro, tutto teatro su Shakespeare. Che bello, che bello. Perfetto. Insomma. Il succo di questa storia. Parliamone sì. in breve, così poi ce la leviamo. Parliamone in breve, va. Allora, c'è... questa famiglia, intanto qui ci sono rumori fastidiosi alle nostre spalle, c'è questa famiglia composta da Dave Tyler, appunto il capofamiglia, sì. con la moglie che si chiama Rita. Rita. Dave e Rita. Dave e Rita. Dave e Rita sì. hanno Dave, una figlia grande, maggiorenne, dalla precedente relazione, mm-hmm. mentre Rita ha un'altra figlia. È già qui. Che cosa? È già qui. Cosa cioè, vuole dire Tommaso? Altre relazioni, altri figli, altre cose. Oh. È la famiglia del futuro. Sono le famiglie nuove, quelle allargate, quelle un po' così, chi capita capita, se li mettiamo tutti in mezzo. 15 padri, 12 mogli, così. Ah, ok. Poi okay. in realtà, cioè, voglio dire, se vai, non lo so, in qualche paese arabo, non lo so, in qualche harem, ce le trovi già, quindi è una cosa banale. Sei tu sì. che sei ritrogra. Vogliamo dire ad Alessia che tu sogni la famiglia con l'harem. No, ah, ok. Con l'harem. Non lo vogliamo dire. No, è un casino. Poi dopo tutti... chi le sopporta? Uno chi le sopporta? Due, ma poi tutti i regali. Pensa se ce n'hai 365. Un regalo al giorno. Oh, io sono povero. Fattilo. Cioè, una, vabbè. Due, se eventualmente per caso può capitare. Però già tre cominciano a diventare pesanti. Insomma. Ciao Alessia H. Spero che tu non ti sia ancora connessa. Perché a volte si connette. Beh, le Qual ho telefonato ieri sera. Qual è il suo nick? No, le ho telefonato ieri sera e mi ha fatto: beh, allora domani sera ti ascolto. Non con questa risatina stupida. Potrebbe non essere molto contento di questa tua imitazione, lo oh, sai. Gesù, speriamo che quando ritorno a casa non mi ritrovi anch'io in un telefilm, non so, di un padre single. Vabbè, quindi sei già padre, riesco da diventare single oppure c'è qualcosa che... Allora, quindi, parlavamo di David. Dunque, a un certo punto nella prima puntata c'è la tragedia. La tragedia, si compie sì. il dramma. Si compie il dramma. Rita, che sta andando a fare l'esame per diventare insegnante di ruolo... Esplode. No. Ah. Al semaforo, è verde il semaforo, lei chiaramente in bici passa. Bene. La certo. macchina della polizia che veniva da destra e aveva il semaforo rosso, invece, non si ferma e la prende sotto. E quindi c'è questo volo, questo capitombolo preso a rallenti. Quanti minuti? 15 no. minuti di capitombolo? No, un po' meno. Due minuti. Macabro, giusto? Sì, per... abbastanza. Diciamo, alla Holly e Benji. Alla Holly e Benji, sì. sì grazie al nostro creatore della sigla di Happy Days. Sì, come Holly e Benji senza il campo collinare. In piano. Ah, in piano. Sì. Strano. Ma c'era il... il cronista no, è una scena di suspense in cui c'è il suo volo. È suspense anche quella quando c'è la musichina da suspense di Holly e Benji. Voglio dire, tu non l'hai mai sentita? Ma si può fare una trasmissione così? Dunque Piero, ti manco, di la verità. È un po' sì. Vieni, Tom, torna. torna a casa. Torna a casa, aspetta a te. Comunque, dicevamo. Dunque, c'è quest'attimo di suspense in cui lei vola così, che sta per cascare per terra, ma ormai, diciamo, il colpo, la botta l'ha già presa. Nello stesso tempo, il compagno, Dave, che è fotografo, sta cercando di fare una foto per una pubblicità. E ci sono questi bambini nelle uova che non trovano la posizione, perché sai, i bambini devi cogliere l'attimo giusto. Tu, fotografo, me lo insegni, che devi cogliere l'attimo giusto. Io, tipico. Tipico fotografo. Tutti i giorni esco con la fotocamera in mano. E vado, è fotografo bambini. Hai sprecato 40 rullini. Sei quasi un fotografo seriale. Sì, sono un fotografo seriale. Poi i bambini sono la mia specialità. No? Che sto lì, uso tecniche segrete tipo il post-it. L'importante è non essere pedofilo seriale. Poi per il resto, va bene. Per favore, non parliamo di attualità. Comunque, andiamo avanti. Quelli sono altri presidenti, non il nostro, per fortuna. Va bene, andiamo Oddio, avanti. Un po' anche il nostro, purtroppo. Comunque, deve... Ma sarà il tuo, Piero, il mio no. Il nostro presidente è pedofilo. Io sono Leo come presidente. No, non abbiamo detto niente, abbiamo detto qualcosa. Io non mi ricordo degli ultimi 10 minuti. Qualcuno si ricorda niente? No, bene. Dunque, stavo dicendo... Bambini all'ascolto, cambiate radio. Bambini all'ascolto, attenti, arriva il presidente. Dunque, c'è questa Rita che purtroppo è stata investita. Nell'attimo in cui sta per cascare, anche Dave che scatta la foto, che prende l'immagine finale, quella mentre il bambino sta cadendo, proprio in quel momento lì, tac, tac, scatta, l'otturatore si chiude, e nel frattempo lui comunque in quel preciso istante sente che qualcosa è venuto a mancare. Lui capisce che c'è qualcosa che non va. Dalla foto? No. Dallo scatto, dal diaframma. Sensitivo. È sensitivo. È sensitivo? No, non è sensitivo. È sensibile? È sensibile. Ok. Sì. Io come Wampum. Hanno un legame psichico. Vedi che psicologo. È psicologo, infatti. Dunque, a questo punto, manderei un pezzo. Ah sì? Che cos'è? Shattered. E che? Trading Yesterday. Ma che ti frega? È questo? No, fammi sapere. Io sono curioso di sapere. Da dove è tratto, Piero? I've lost who I am, and I can't understand why my heart so broken, rejecting your love without love gone wrong, lifeless world. Che bel pezzo, E siccome non lasciamo domande in sospeso, quella di Tommaso era: ma da dove è tratto questo pezzo? È tratto da questa serie qua, che è Single Father, di cui stiamo trattando, no? Sì, c'era niente di... Ah, che bravo, strano. Che sei, Piero. Grazie, Piero. No, perché mi ero perso un attimo il filo del discorso, perché è stato un inizio entusiasmante. Bene. Allora, vediamo. Quindi, un po'. Siamo arrivati al momento in cui c'è diventa drama, veramente single father, no? Ok. Cioè, okay. Sì. Allora, cosa succede a questo punto? C'è il dolore della famiglia, cioè lui torna a casa e c'ha 5 figliuoli da accudire, che poverini, quelli più grandi va bene, però sono quasi tutti in età adolescenziale, quindi devono essere accompagnati, diciamo, in questo percorso di coscienza della un po' anche seguiti, cioè. Serve uno psicologo, serve Tommy, infatti. Serve Tommaso, Tom, però. Quindi lui cosa fa? Se li mangia per evitare problemi oppure no? Vabbè, continua a lavorare, continua a seguirli sempre di più, cercando di sostituire anche la figura della madre, quindi un po' una cosa... Smette la gonna? No, quello no, però diciamo cerca a livello emotivo di... Ma sono, sono maschi, femmine? Sono... Allora, ti spiego, ho fatto lo schemino. Grazie. Allora, Dave... Ma perché intanto, quanti sono? Allora, fammi parlare, l'ho già detto che sono 5, però ti spiego un po'. Allora, Dave, dalla precedente relazione con Michelle, ha una figlia, Tania, 18enne. La bambola? No, la bambola, Tania. Lei. Ok. Poi Dave si mette con Rita. Rita però nel frattempo aveva avuto già una figlia, Lucy, 15enne, con un altro uomo non meglio identificato, che si scoprirà più avanti e si chiamerà Stuart. Spoiler. Stuart si chiama? Sì, Stuart. Ma e ha un'altra famiglia a Edimburgo, in Scozia. Ma lavora all'aereo? Sull'aereo. È un avvocato, quindi non è uno steward. Non è uno steward. Steward, è solo steward. Ma non fa lo steward. Esatto, non fa lo steward stasera. Ok. Poi Dave e Rita insieme hanno avuto Paul, 11 anni, Ewan, 9 anni, e Ivy, 6 anni. Oh. Bambina, Ivy. Beh, giustamente. Quindi, diciamo che Paul è quello che è un po' più irruento, che il dolore lo trasforma in violenza. Quindi un po' entra a gamba tesa sul fratello, teppistello. E teppista dal cuore morbido. Ewan invece trova la vocazione religiosa, e il padre giustamente dice: guarda, ma come hai fatto in una famiglia di atei a venire fuori così? Poi c'ha 9 anni. E c'ha 9 anni. E lui a Natale gli chiede di avere in regalo la Bibbia. Beh, anch'io sono rimasto un po' così, perché a 9 anni, sai? Sì, infatti. Quando arriva, arriva. E poi c'è Ivy, la dolce Ivy, che chiaramente essendo la più piccolina è quella più legata alla figura della madre, quindi un po' le manca, un po' non capisce tutto quello che è successo. Piccina, la mamma è morta. E poi è morta. Così. E poi c'è tutta una galassia che ruota attorno a questa famiglia, che sono, avevamo già citato Michelle, che era la precedente moglie, e che si intromette sempre perché ha paura che la sua figlia grande non abbia poi niente dell'eredità. C'è un po' sempre questa cosa del... La figlia grande, aspetta, Tania. Tania. Bravissima. Okay, poi c'è Sara, che era amica di Rita, anche lei insegnante, che nel frattempo era fidanzata con Matt. È fidanzata con Matt. Matt Damon? No. Matt Groening? Può essere, perché... Matt Dillon? Sa tutti i Matt del mondo, non la finiremo mai. Poi c'è Anna. Metticcio. Allora. C'è Anna, che è la sorella di Rita. Anna. Voglio Anna. Anna, lei. Okay. Che è un po' la rompicoglione della famiglia. Cioè sta lì. Scusate. La premurosa. La premurosa della famiglia. È sempre lì che comincia a fare: allora tu perché non hai dato il cellulare ai bambini? Perché così li possiamo sempre sentire, continuare? Perché non hai dato da mangiare questo? Non ci può stare. È sempre lì che c'è sempre da sindacare. E c'è il povero marito Robin, un avvocato anche lui, che poverino la sopporta. Robin. Robin. E Robin utile del giorno. Non mi aspettavo Batman in realtà. Lo studio avvocato. Lo studio di avvocati. Batman e Robin. Farebbe c'è un'induzione e lei c'è il fatto segnare Robin. Tra l'altro, su questa cosa c'è uno spin-off bellissimo che ti dico adesso, che è dell'ordine degli avvocati, che era la camionetta, non so se l'hai mai vista, chi è qua a Pisa ha visto almeno una volta nella vita il pullman dell'ordine degli avvocati, che è tipo la Batmobile. Sì, praticamente. Quando ancora ero un ragazzo. Io non l'ho mai visto, Leo. Come no? Quando ancora ero un ragazzo e andavo a lezione all'università. Vabbè. E vivevo da un'altra parte. Fa. Sì. E anni e anni fa. Mi capitava tutte le mattine di incontrare questo pullman con tutti quanti gli avvocati vestiti allo stesso modo. Tutti quanti con la stessa valigia e ci mancava solamente la siglina di Batman, no? Con una cosa tipo tutti presso la Batmobile. Sì, esatto. Cioè, questo pullman grigio con scritta blu Ordine degli Avvocati di Pisa. Cioè, addirittura? Sì, è bruttissimo. Ma li andavano raggiungendo casa per detto, casa. Sì, beh, un po' inquietante. Sì, erano tipo gli idraulici, no? Ah, c'è un guasto, una tubatura, e chiami gli idraulici che ti risolvono tutto quanto. Perché sennò, no, mia moglie vuole divorziare. E passano l'ordine degli avvocati e salvano la situazione. O la camionetta del coso dell'Asonil, non lo so. Comunque, fine parentesi. Ok, ma adesso andiamo un attimo a indagare la parte sentimentale della corsa, no? Ok. C'è lui che gli manca Rita, passano mesi e mesi e mesi, facciamo 3 mesi diciamo che passano, e a un certo punto lui... Mesi. Giusto, 3 mesi. 3 mesi. Io che ho detto? Si era fatto i conti prima, Leo, cosa credi tu? Ma infatti stupido io. Comunque... Passano questi 3 mesi e a un certo punto lui si ritrova in bagno, distrutto da alcuni avvenimenti che sono accaduti nella famiglia, quindi che ha litigato un attimo con la figlia più grande che vuole ritrovare il padre, che ha visto che i due ragazzi più piccoli si stavano menando, insomma, e vede tutte queste cose contemporaneamente e lui è solo, e quindi va un attimo in bagno e si lascia andare a un pianto liberatorio. Nel frattempo sale su, sale le scale, perché il bagno è al primo piano, devi sapere, nella casa. questo non so se è un particolare importante, ma è fondamentale, fondamentale da dire. Nel caso inglese, nel caso inglese c'è un bagno di servizio al fondo a destra, no? Sì, anche, ma nel senso c'è un piccolo bagno di servizio che c'è al piano terra e il bagno quello è ufficiale è al primo piano. Sì. Grazie libro d'inglese dell'elementare. Comunque. Quindi lui sta nel bagno. Che certo cultura, presidente, che cultura. A un certo punto entra Sara, l'amica di Rita, che è fidanzata con Matt. Sì. Arriva Sara e lo consola. E c'è lui che si confronta un po' con lei. Uh-huh. E nella sua testa, a un certo punto, l'immagine di Sara e l'immagine di Rita, che è morta, si sovrappongono. E lui ha talmente tanta voglia di baciare Rita che alla fine bacia Sara. Solo che Sara sta con Matt. E quindi si crea un po' questa cosa qui, che è la fine del pilot, e iniziano altre tre puntate, perché è una miniserie inglese, non l'abbiamo detto, da quattro puntate. No. Orca vacca. Già. Drammatico. Sì, finisce così, perché poi... Cioè, adesso... Poi non posso dire... Mamma mia! Se volete, lo guardate. Cosa... Cioè, cosa succede? Dimmi. Non posso, sarebbe troppo spoiler. Spoiler. Maledizione. Bene, allora mandiamo un pezzo. Mandiamo questa volta un pezzo mentre io mi rattristo per non sapere il finale di questa cosa. Lo so che è triste. Però passiamo subito all'altra serie. E dall'altra serie mandiamo gli Spoon, il cucchiaio, con Trouble Comes Running. Vedo sul tavolino di Tommaso una bottiglia di Pago. Ah, paga lui quindi? Sì. Allora è offerto, siamo a posto. Grazie, venite tutti. Io pago. Lui paga. Presidente, come ti è parso questo pezzo? Questo pezzo? Questo pezzo. Chitarroso. Sì. Aspettatene altri così, perché Shameless è una serie che propone una colonna sonora abbastanza rock. Abbastanza rock. Chitarrosa. Molto molto rock. Rock and roll. Di quelle che piacciono. Una colonna sonora molto divertente. Sì. Lui ha visto la prima puntata, è rimasto sconvolto, però la musica gli è piaciuta. Ah, bene. Poi ne parliamo dopo. Sono contento, va bene. Quindi? Va bene, quindi? Cambiamo completamente racconto, punto di vista e famiglia, parliamo di Shameless. Parliamo di Shameless. Allora, questa qui originariamente è una serie UK, cioè del... Bolzano. Gran Bretagna, su. Poteva essere Bolzano. Sì, in effetti, ormai si usa anche la K in Italia per le sigle. Cioè... Questa serie va in onda già da 8 stagioni. 8 stagioni? Voglio la 8 stagioni, sì, un attimo. Aspetta, 8 stagioni? In pizzeria, sì. Beh, però devi capire che in Inghilterra le stagioni sono fatte da meno episodi rispetto a quelle americane. Che americane di solito sono 24 episodi la prima stagione, invece... Invece gli inglesi ne fanno da 6, tipo. Ah, sì. quindi sono tipo due mesi in realtà. Sì, fanno gli speciali di Pasqua, un po' così, però in realtà... Oh, mamma mia. Sono quelle lì, non sono tantissime puntate. E vabbè, comunque. Questa serie poi è stata comprata dall'HBO inizialmente, che però poi ha ceduto il progetto alla Showtime. La Showtime, che è quella di Dexter, che è quella di Californication. Ah. E tra l'altro la collocazione nel palinsesto è alla domenica ed è interessante perché viene dopo Californication, che fa da traino. Ah. Episodes, che è una serie nuova che prende in giro gli americani che chiamano, i produttori americani che chiamano gli scrittori di serie TV inglesi per rifarle con attori americani. Ah. Quindi in realtà c'è un po' di autoironia nella rete. Nello Showtime. E poi dopo c'è questo Shameless, che è un po' l'elemento di rottura della, insieme a Californication. Quindi porno, stupidaggini. E poi c'è la famiglia di Sassari. Senza vergogna. Senza vergogna. Perché senza vergogna? Bella domanda. Perché senza vergogna? Aspetta un attimo. Senza vergogna perché in realtà, mentre abbiamo visto il single father di prima, sì, che era uno che si preoccupava della famiglia, ho già paura. Questo qui è un ubriacone, sfattone, che non se ne frega assolutamente niente di quello che è la sua famiglia, ci torna soltanto la notte ubriaco quando lo riporta la polizia e dorme, rimane in coma sul pavimento per tutto il resto della giornata, tranne quando poi si alza, arriva al bar, si ubriaca di nuovo e continua il suo ciclo di giornate così sempre uguali e lascia la famiglia allo sbando. Bene. Benissimo, adesso io manderei la sigla. Fammi sentire questa sigla. Sigla violenta, aggressiva, anche lei è aggressiva. Ah, sì? E poi ti faccio, se abbiamo tempo, ma ti faccio vedere anche il video. Ah, va bene. È fantastico. Ah, c'è questa inquadratura fissa nel bagno della famiglia, sporco così. E ci sono tutti i personaggi che si alternano sulla tazza, un po' così, che si lavano i denti. E lì mi dici tu, vedi questa inquadratura fissa su questa musica. Tarana, tarana, tarana. E tu vedrai tutti loro, che è fantastico. Mi hai dato un'idea per la sveglia di domattina. Sì, sì. Bene. Nel frattempo, la faccenda ruota tutta attorno a Frank Gallagher, che è appunto il padre. Frank Gallagher si vede nel pilot, che è di 58 minuti, lui si vede per 10 minuti e recita per la metà, perché per l'altra metà lui è sempre sfatto per terra, ti giuro. Eppure l'attore, che è William H. Macy, che tu conoscerai per Fargo, sì, lui no, come no. Una ricerca dopo la facciamo e te lo faccio vedere, dirà: ah, ma è lui, lui ha recitato in qualsiasi cosa, lui c'era. Cioè, quindi è un grande attore americano. È famosissimo lui. Cioè, se lo dice Tommy, che non va mai al cinema. Vabbè, allora, Tommy, cioè, che ti devo dire? Come non va mai al cinema? Vuoi che dica un po' di filmografia dall'80 ad oggi? Attenzione. Anche, sì, vai, sì, vai, Sciorina, vai. Ce l'ha. Il solito ritardo. Ovunque nel tempo, senza razza, L'ultimo drago, Radio Days, La casa dei giochi, Le cose cambiano, Homicide, Ombre e nebbia, Benny e John, Le cinque vite di Hector, Il cliente, Oleanna, che non so che cosa sia, mai sentito, Good Time Holland, Una leggenda per amico, L'isola dell'ingiustizia, Altas, Giù le mani dal mio periscopio, Giù le mani dal mio periscopio, Ghost from... tanto tanto altro, cioè, sì, io direi che può bastare dopo giù le mani al mio periscopio, direi che può bastare, anzi, cioè, anche Jurassic Park 3, Psycho, a Jurassic Park 3, e aspetta, ne ho visto un altro, se l'ho fatto tutti, niente, basta. Che bravo ragazzo, sì, sì, ma la lista continua, insomma. Infatti io, dopo aver visto la nuova serie, sono andato a ripescare quella UK, e in effetti si vede proprio che l'attore riempie un po' lo schermo, cioè, nel senso, mentre quello inglese sì, c'è, però non ha la veridicità, diciamo, del personaggio. Uno sbronzo che capita ogni sì, tanto. Sì, però, cioè, non c'ha proprio la faccia di quello sbronzo, così, che può essere... sbronzetto. È uno sbronzetto. Invece lui è fantastico, cioè, veramente... Andatevelo a guardare. Nonostante lui stia in coma per tutta la puntata, però parla solamente per quei 5 minuti ed è credibilissimo. Cioè, veramente, te la passo. Grazie. Perché io spaccio serie, quindi se vuoi, va bene. E quindi tutto l'episodio parla di lui, ma siccome lui è in coma, non parla attraverso di lui. Sono tutti gli altri che parlano di lui. Che parlano di lui. Ah, ecco, chissà che bella immagine. Sì, ci sono un po' allora, visto che siamo arrivati a questo punto qua, io c'ho l'altro schemino con la famiglia, che è ancora più complicata, perché adesso io farei una foto a questi schemi, perché sono veramente, ci mancano i colori e sono proprio... Il nero, la radio a colore nero marcato, vuol dire che c'è una liaison. Ah, pensavo vuol dire che c'era un nero. Come vedi, tutto parte da Frank Gallagher. Okay. Questi qui sono i figli, che abbiamo Carl, è il più piccolo, ci avrà un annetto. Mm-hmm. E proprio c'è questo bambino nero tutto riccioluto che fa, cammina per casa, così lo vedi in questa casa di sfattoni o comunque gente che non bada molto alla, all'igiene tutto, e c'è questo bambino che passeggia un po' così. Uh-huh. Poi proseguendo in ordine d'età c'è Debbie, una bambina, ci avrà 7 anni tipo così. Mm-hmm. Più o meno quella è l'età. Mm-hmm. E appunto questa bambina che è quella che alla fine vuole più bene al padre. Ah. Perché tipo tu nelle scene in cui lui è sfatto in casa, perché di solito non c'è mai in casa, quando c'è la notte tipo, c'è lei che si sveglia, si alza, prende un cuscino, lo mette sotto la testa, gli allontana la lattina di birra, è molto premurosa, è proprio tenerissimo. E poi c'è Ian, che è il fratello minore, che, di cui dopo parliamo, analizziamo. Philip, chiamato Lip per brevità che Phil era... troppo brutto, invece sì. Lip, più, evidentemente gli piaceva di più. Sì, Lipton Ice Tea. Lip. No. È buono qui, è buono. Ma mi posso immaginare perché, però vabbè. Forse. Dunque, Lip, appunto, che è un po' il genietto di famiglia, riesce comunque a cavarsela anche a scuola molto bene, comunque va bene a scuola. È un bravo ragazzo. Insomma, cioè nel senso, il padre lo descrive così. Dà anche ripetizioni, studioso. Ripetizioni. Ma tu non sì. sai cosa succede nelle ripetizioni. Ne parliamo dopo. Aspetta, allora è per questo che si chiama Lip, dai. diciamolo. Come mai hai già capito di cosa stavo parlando? Fiona. Invece Fiona è quella grande. È quella che alla fine fa le veci uh-huh. anche, ma fa le veci del padre. Uh-huh. E appunto è quella che si occupa di portare avanti tutta quanta la famiglia, di andare a lavorare, di accumulare soldi, perché il padre tutti i soldi che prende facendo finta di essere invalido li spende in alcol. Beh, certo. Scusa, in ecstasy, forse, perché a volte arriva proprio sfatto. Tu non faresti così? Non ho capito. Forse. si contiene, ma chi lo sa. E va bene, io manderei un pezzo a questo punto. Aspetta un attimo, Piero. Dimmi, cosa c'è? Prima di mandare un pezzo, volevo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che sulla nostra pagina di Facebook è appena stato messo e pubblicato la sigla di Shameless. Sei un grande, Indirella l'ha fatto adesso. Pensa che mentre noi parlavamo. Pensa che bravo. Lui era lì zitto, ha caricato su YouTube il mio video. Ha fatto le sue cose. Il tuo video, non è che ci sei te in mutande, voglio dire. Però Fiona sì. Già. Vabbè. Quindi ora ma tutti quanti il fatto che poi si chiama Fiona, no? Come quella di Shrek, so dire. No, non come quella di Shrek, ma sai, qui di solito nel dialetto, nel vernacolo pisano si elidono di solito le C. Visto che comunque hai fatto notare che a livello di fisico è messa bene, sì, dire. C'è questo volto con un po' di occhiaie, sai, è una bella ragazza. Anche il fatto che comunque è tutto sulle sue spalle, quindi deve portare avanti. Quindi magari non è una Fiona, però. Però, sì. Meno male che non posso licenziarmi. Vai, allora io mando i Rara Riot con Boy. Mi piaceva il basso. Già. Parliamo un po' di questa serie, ancora un po' dei personaggi. Parliamo un po' di questa serie, dei personaggi, va. Parliamo di Fiona, che abbiamo detto già che fa le veci, si prende tutta la famiglia addosso, insomma, non ci ripetiamo su questa parte qua. Diciamo che lei poi lavora in un fast food a livello di lavoro precario, mm-hmm. però poi la sera ogni tanto, quando diciamo proprio non ce la fa più, mm-hmm. si concede insieme alla vicina, di cui forse poi parleremo, non so se ne abbiamo si il tempo. Si concede in che senso? Si concede una serata in discoteca. Ah, e quindi tutte le sere? No, si concede una volta ogni tanto, capita, una serata. In una di queste serate, mm-hmm. cosa succede? C'è lei lì che balla, mm-hmm. e a un certo punto arriva un tizio, mm-hmm. che si mette a ballare con lei, mm-hmm. e gli frega la borsetta. Lei comincia a rincorrere, ma nel frattempo c'è un altro ragazzo, l'eroe. Il figlio. Non è l'eroe di Saranno Famosi, no, è l'eroe. L'eroe. È l'uomo che salva la situazione, uh-huh. o almeno ci prova, uh-huh. che corre dietro a questo qui, non lo riesce a prendere, però capito, comunque c'è il gesto eroico di lui che stupido eroe. si trova a un certo però punto... Però ci prova... Vabbè, sì. Ho capito, però se ci prova non ci riesce. Dà anche un pugno all'omone enorme. Ah, sì? Sì. Sì, cioè il butta fuori. E magari si fa male. Che forse era amico del ladro. Che sì, abbastanza, ritorno. Però... Ecco, vedi? Doveva fare il figo. Non ha funzionato. Non sappiamo se ha funzionato o non ha funzionato. Perché poi, sappiamo, sai, comunque lui a casa sua di Fiona... si fa un po' medicare il fatto che è stato picchiato, quindi... Ah, sai, poverino, sei tutto rotto. Ma scusa, va, aspetta, non avevo ricollegato. Va a casa di lei? Sì, con tutta la prole che è lì in mezzo. Problematico. Vacca, tra l'altro ci va con la BMW e tutti gli acchiati, c'ha la BMW, il macchinone. Come farà? E infatti poi lui c'ha tutto questo faccino bellino così, è simpatico. E diciamo che... lei non è ben cosciente se concedersi oppure no, non lo sa. Cioè, non è cosciente? È cosciente, però non sa. Non è consenziente non ancora? Non è consenziente, cioè è un po' sì, un po' no, è un po' sul forse, capito? Okay. Quella fase è ancora un po' così della stasi. In cui... Ho capito. E lui cerca in tutti i modi di convincerla. Cerca prima, diciamo, con il fatto che, capito, è lì a torso nudo a farsi medicare, quindi fa un po' il figo. Lancia feromoni. Lancia feromoni, così. Poi... poi lancia ferri da stiro, cerca di stenderla, no. Sarebbero le mollette sul filo. Leo, questo è triste eh? Vabbè, ci prova con tante telefonate, la chiama in vari momenti del giorno, è tutto dolce dolce dolce dolce, dolce. alla fine la paga cioè no, veramente no. Nel mondo berlusconiano tutto sembra possibile, ma non funziona sempre così. Cosa fa lui? Le compra una lavatrice nuova, perché la sua non funziona bene, la deve sempre stare lì a mantenerla per paura che si apra mentre sta andando la centrifuga. Regalo. Quindi regala una Samsung per fare pubblicità, cioè la marchetta, cioè la Samsung, è scritto sul cartone della lavatrice nuova. E pensa come possono fare i lettori DVD, se le fanno come la lavatrice. Comunque. Però fino a questo punto ancora lei è indecisa, gli concede una cena. Vanno a cena in un grande albergo di lusso. Lei al ristorante e niente, lui cerca di convincerla, ma lei è ancora riottosa. Sì, però poi, perché lui è troppo bravo ragazzo, dice: che ci fai con la mia famiglia, cioè io c'ho il padre che non c'è mai, non ci sta bene nel contesto proprio, cioè lei non ci si vede, sei troppo fico per me, lasciamoci. Allora lui però a quel punto fa vedere che in realtà lui è un ladro di automobili. Ma cioè, dai! Sì. Ma allora? E allora lei si gasa da questa cosa qua e, diciamo, ci sta. Come si gasa? Eh sì, perché a lei gli piace questa cosa dell'uomo un po' così rude che qualcosa di illegale lo fa. Cioè, lui frega le automobili, sì. Però non è nemmeno capace di prendere un ladro che gli ha rubato la borsetta. Vabbè, ma ci ha provato. Cioè, nel senso, lui era su... Il ladro in maniera stupida. Ma... non lo so, secondo me c'è sotto qualcosa. Lo devi guardare prima di poter. Lo guarderà, l'ha promesso, signore. Non ho promesso, ho detto lo guarderò. Comunque, adesso io mando il pezzo di quando lui e lei e il ladro sono in discoteca e ballano. Lei e il ladro. Tu quando vieni qui ci sono sempre pezzi discotecari. L'altra volta c'erano i fratelli chimici. Stavolta invece sono, vediamo se li riesci a pronunciare perché hanno un nome un po' strano. Free or free? Dici che è free or free? Free or free. Va bene, chiamiamoli free or free con My First Kiss. Va bene, sentiamo un po' com'è. My first kiss went a little like this. And twist, well, my first kiss went a little like this. And twist, and twist. I said no more teachers and no... When she gets a little touch, if I had it my way, you know that I'd make a say. Oi, oi, oi, oi, abbiamo avuto notizie. Sì. Brividi. Brividi. Che è successo? Lo vuole dire? Lo vuole dire in diretta? Eh? Abbiamo ascoltatori da oltre po'. Da oltre po', sì. No, mi dispiace, la mia ragazza non ce l'ha fatta. Ha ascoltato un po' e poi se n'è andata perché il computer si trova nella stanza più fredda della casa. Vabbè, purtroppo. Noi apprezziamo lo sforzo. Sì, petizione per stufetta elettrica a casa di Alessia. A casa di Alessia, grazie. Bene. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che abbiamo parlato di Fiona e Steve. Fiona e Steve. Fiona. Adesso parliamo di Lip e Ian. Lip, senti com'è. Allora, Lip è il fratello più grande. Ok? Lip. È quello che, diciamo, per portare a casa il latte la mattina va a fare furti al camion del latte. Appunto. Pure. Sì, è un po' così. Perché in questa famiglia per campare lo fa Lip. Si fa così. Si ruba un po' sulle offerte all'Unicef. Sì, per pagare le bollette. Ognuno deve contribuire perché il padre non porta niente. Beh, certo. E quindi loro si devono mettere le mani in saccoccia e portare... la maggior parte lo fa Fiona, diciamo, il 70% lo mette lei. Il 30% lo mette invece... Lo mettono invece gli altri figli, a parte il povero Carl che ha un anno e diciamo è impossibilitato per ragioni che tutti possono comprendere. Beh certo, giustamente. Allora, torniamo a Lip. Torniamo a Lip. Torna in casa. Senti che pino. Che pino. Questo microfono. Lip torna in casa, in camera sua, si sta cambiando, a un certo punto cade da un mobile. Dei fogli. Ah, cadono i fogli. Pensavo cadessero. Raccoglie questi fogli e scopre che sono immagini tagliate da giornaletti porno gay. Siccome lui condivide la stanza con il fratello minore, sì, Ian, lascia stare la P. Ian, yes. Quindi comprende. Quanti anni ha Ian? Ian circa. È sui 14, diciamo. Ah, ok. Sì. Uh-huh. E insomma, capisce che c'è. C'è qualcosa di grande tra di noi. Ecco, tra di noi oppure tra lui e il fratello, cioè tra il fratello e qualcun altro. Insomma, c'è qualcosa di grande. E da quella sera dorme in modo un po' più coperto, diciamo, con le mutande di lana pesante. E dice, ma veramente ti piacciono gli uomini? E lui, insomma, cerca di spiegare al fratello che però è molto turbato da questa cosa qui. Allora, cosa fa? Lui dà ripetizioni perché è bravo a scuola, la chimica, così, la scienza in generale. La scienza. Bravo. Mi grazie. Parli un po' della scienza. La scienza. Dovremmo parlare. Prendi un elettrone, no? Preso. L'ho preso. Cioè, okay. Ce l'ho qua. Ecco, al volo. No, andiamo avanti. Quindi, Lip è andato a fare delle ripetizioni a casa della signora Schottenmeier. No, Sheila. E la figlia Karen aveva bisogno di ripetizioni. Mm-hmm. Solo che la figlia Karen, a quanto pare, lei dice che la scienza la emoziona, la eccita, sì, e si nasconde sotto il tavolo e la fellazio. Tac. Con la madre presente, tra l'altro, cioè, la madre in cucina, dall'elettrone alla... Sì, okay. Mi vengono in mente tante rime, ma non posso dire. Allora lui cosa fa, Lip? Dice, vabbè, adesso vediamo se ti risveglio un po' l'ormone masculo. Ti porto a fare ripetizioni con me. Tanto quello l'ha fatto a me, lo farà pure a te. Certo, tipico. Allora, tu basta che gli parli della tavola periodica e lei... E quindi vanno lì e c'è lui che... È facile. Comunque, vorrei notare anche... Che comunque lo sfondo sessuale c'era anche la settimana scorsa, se non sbaglio. Due settimane fa. Sì, quando lei era ospite. Qui allora, sempre quando sono ospite. Quando sei ospite tu, sì, c'è va a finire questa cosa. Strano, sarai tu. Sarò che ci io. Ispiri questi pensieri, queste serie TV. Ispiro tutte le serie TV più porche. E respiri le serie TV. Le respiro, le mangio, le bevo, cioè proprio. Dunque, quindi Lip porta Ian qui, a casa di Karen. A un certo punto, mentre lei, Karen, è andata sotto il tavolo e sta armeggiando con l'arnese di Ian, arriva il padre. Il padre, che è già un po', diciamo... Bacchettone. Un po' bacchettone. Diciamo che lui la tavola periodica degli elementi non gli interessa. A un certo punto vede che Karen non c'è, eppure Ian e Lip stanno ripetendo la tavola periodica, e si domanda, ma dove sarà mai... Dove sarà mai Karen? E la madre, che era distratta, come già la volta precedente, dice no, sarà andata in bagno, vedrai, la torna. Tipico. Nel frattempo, mentre loro si mettono a discutere, moglie e marito, cade una patata per terra e lui si piega per raccoglierla. E vede la patata. E vede la figlia che si asciuga la bocca. Questa scena è abbastanza truce. e comincia a rincorrere i due fratelli su questa musica. Oh, mamma mia. Che sono i The Vines con Get Free. Siamo qui? Ci siamo? Ci siamo. Siamo qui. Questa canzone, questo brano. Piaciuto? Sì, mi piace molto. Molto musica rilassante, devo dire. Questo è la terza, vero, di Big Man? Sì. Un pezzo calmo, finalmente. Sì, Tommy, sì. Tu l'hai sentito? Sì, l'ho sentito. Ah, sì? Falso. Falsissimo. Bugiarderrimo. Sì. Ti è piaciuto, no, Tommy? Lo sento 10 secondi con 10 secondi di ritardo, ma lo sento. Ho capito. Va bene. Adesso, noi, per quest'oggi, abbiamo finito di indagare le nostre serie che avevamo da presentare appunto oggi, che erano quelle sulla famiglia, che ricordiamo essere Single Father e Shameless. Quale ti è piaciuta di più, Leo? Non lo so. Cioè, poi dipende. Tu ti vedi più bravo papà o papà ubriacone? Io mi vedo ragazza morta che compare sul volto, sulla retina del marito. Mi vedo, sinceramente. In quella parte, cioè, ci sto da dire. E intanto ricordiamo ai nostri amici. Cioè, ti vedi investito da una macchina? Un po'. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che se nel caso volessero partecipare al nostro quiz, il nostro quiz che ormai da mesi, da anni. Impazza sulla rete, tutti si vogliono, tutti. Quindi nel caso aggiungete Trapasonic su Skype e chiamate. Pensa, la serietà, Trapasonic. Trapasonic si chiama, cioè io lo aggiungerei solamente per questo. No, nel frattempo, adesso parliamo un po' della serie che abbiamo un po' abbandonato, anche se è quella che poi ci motiva a guardare altre serie TV. Che triste. Cosa? Averla abbandonata così. Ma noi adesso la riprendiamo, Tommy. L'abbiamo abbandonata? Cioè l'avete abbandonato, cioè, io sono qui, sì, da adesso. Di che serie è, Leo? Che serie è? Non so. Saranno... No, non me la devi chiedere, devi annunciarla. Ah sì? No, pensavo di chiederti, no, perché non so, sono in inizio. Annunciala. L'annuncio, va bene. È The Big Bang Theory. Siamo giù. Che pronuncia, Leo? What pronunciation? Sì. Ho studiato ad Harvard. TBBT, come dico io. TBBT. Siamo arrivati al terzo episodio della prima stagione. Alla? Prima stagione. Ancora? Sì. Abbiamo fatto due, poi ci siamo interrotti per vari vicissitudini, vari speciali, gli ospiti, insomma, ci siamo dilungati abbastanza, poi abbiamo dovuto tagliare, tagliavamo sempre su TBBT. Non si fa sta vita. Non si fa, intanto. Cosa succede in questo episodio? Io direi di mandare il primo spezzone e poi io, te e le rose la dovremmo ridoppiare. Le rose sono pronte. Vai. Mail, very old school, I like it. Penny, the mailman did it again. Oh, sorry. No, hi, Leonard, this is Doug. Doug, this is my neighbor Leonard. What's up, bro? Not much. Bro? Is everything okay? Yeah, no, I got your mail again. Here. Thank you. I got to talk to that mailman. Oh, no, that's probably not such a good idea. Civil servants have a documented propensity to, you know, snap. Okay, well, thank you again. No problem. Bye. Oh, and bye. Bro. Allora, noi l'abbiamo visto, ridiamo, però la gente a casa non lo sa cosa abbiamo detto. Intanto, inseriamolo un po' in un contesto. Sì. C'è Leonard che è in fissa per Penny, sì, e gli ha rubato la posta. Perché? Per potergliela consegnare di persona. Ah. Allora, c'è questa cosa qui che lui esce dalla porta perché ha sentito Penny rientrare, però non si è accorto che lei è con Doug, un ragazzo. e si sta sbaciucchiando sul pianerottolo. Un ragazzo sbaciucchione. Un ragazzo sbaciucchione. Ora andremo a ridoppiarlo. A ridoppiarlo. Ma sei sicuro? E io cosa faccio? Snail mail, tu fai Penny. Like ok, io sono Penny. Io sono Leonard. Penny, il postino l'ha fatto di nuovo. Mi spiace. Oh, ciao Leonard. Lui è Doug. Doug, questo è il mio vicino Leonard. Come butta, fratello? Non bene. Fratello. Va tutto bene? Sì, no, solo ho ricevuto ancora una tua lettera, ecco. Ah, devo proprio parlare con quel postino? Non credo sia proprio una buona idea. Sai, gli operatori pubblici hanno una documentata propensione per arrabbiarsi, per cui... Ok, beh, grazie di nuovo. Nessun problema, ciao. Ciao anche a te, fratello. Ebbene, e questo era il primo spezzone. Poi dopo cosa succede? Cioè che... sai com'è? Lui ci sperava che... cioè, con Penny era vicina di casa, dai, dice c'è una possibilità. Sì. Invece poi la vede con Doug, dice però vedi lui è bello, muscoloso, forzuto, io sono uno stupido scienziato. Cioè uno stupido, un intelligente scienziato, però al moscio scienziato, quindi come farò mai? E quindi si deprime. È lì che si deprime quando a un certo punto ha un dialogo illuminante con Sheldon. È un attimo che... i protetti mezzi della regia ci mandano il filmato. It doesn't matter. The woman's not interested in me. The woman rejected me. Okay, look. I think that you have as much of a chance of having a sexual relationship with Penny as the Hubble telescope does of discovering at the center of every black hole is a little man with a flashlight searching for a circuit breaker. Nevertheless, I do feel obligated to point out to you that she did not reject you. You did not ask her out. You're right. I didn't ask her out. I should ask her out. No, that was not my point. No, my point was, don't buy a cat. No, but you're right. I should march over there and ask her out. Ask her out. Bene. Bene. Adesso, tu cosa vuoi fare? Sono entrambi abbastanza complicati, però forse Sheldon devi essere più rapido. Vuoi fare Sheldon? Vabbè, ok, ci provo. Farai Sheldon. Farò Sheldon. Non importa. La ragazza non è interessata a me. La ragazza mi ha rifiutato. Ok, ascolta. Credo che tu abbia la stessa opportunità di avere una relazione sessuale con Penny di quella che ha il telescopio Hubble di scoprire al centro di ogni buco nero un omino con una lanterna che cerca l'interruttore automatico. Tuttavia... mi sento obbligato a farti notare che non ti ha rifiutato. Tu non le hai chiesto di uscire. Hai ragione. Non le ho chiesto di uscire, dovrei farlo. No, non volevo dire quello. Quello che volevo dire è non comprarti un gatto. No, ma hai ragione. Dovrei correre di là e chiedere di uscire. Il pezzo finisce, io l'ho tagliato, però finisce con ok, stiamo per comprare un gatto. Che dice Sheldon. Perfetto. Passiamo all'altro spezzone. Cosa succede? Lui va lì in una maniera un po' si sforza di cercare spregevole. Di chiedere un appuntamento e lei alla fine dice di sì, perché pensa che in realtà vada all'appuntamento con tutta la sua combriccola. Dice ah, usciamo insieme con tutti i tuoi amici, usciamo insieme, va bene, io ci sto. Lui obbliga i suoi amici a non andarci, anzi non glielo dice, lui dice sì, usciamo, quindi loro non sanno assolutamente niente. E all'appuntamento, questo è quello che una piccola parte di quello che succede. Che suspense. I potenti mezzi ci danno suspense. Eh già. Vai. Sta partendo, sì. So are the rest of the guys meeting us here? Oh yeah, no. Turns out the Raj and Howard had to work and Sheldon had a colonoscopy and he hasn't quite bounced back yet. Oof, my uncle just had a colonoscopy. You're kidding. Well, then that's something we have in common. How? We both have people in our lives who want to nip intestinal polyps in the butt. Cosa vuoi fare? Farò la donna. Ok, farò lei. Allora io faccio Leonard. Bravo. So are the rest of the guys Quindi i ragazzi ci raggiungono qui? Oh sì, no. Raj e Howard dovevano lavorare e Sheldon doveva fare una colonoscopia e non si è ancora ripreso. Ah, mio zio ha appena fatto una colonoscopia. Scherzi, allora abbiamo qualcosa in comune. Cioè? Entrambi conosciamo persone che vogliono affrontare i polipi intestinali sul nascere. Ecco, diciamo, una conversazione che inizia su questi temi, diciamo, dove potrò mai condurre. Mi piace. Non l'hai mai visto? No, mi piace questa conversazione. Ah, questa conversazione. Sì, sono sul tuo livello, effettivamente. Poi non svegliamo come finisce, perché almeno così la gente ha voglia di andarsi a vedere un altro episodio di The Big Bang Theory. Olè. Dunque, adesso a questo punto io manderei un altro pezzo, sempre tratto... Cosa ci fai sentire? Da Shameless. Sì. Ancora il cucchiaio, i nostri amici cucchiaio, gli Spoon. Ah, proprio lì. Ecco. Hanno preso un album in realtà e lo hanno messo, lo hanno spalmato su tutta la prima l'hanno serie. Dato a disposizione alla prima serie. Beh. The Way We Get By. We get high in backseat circles, we break into mobile homes, we go to sleep to shake a pill. That's the way we get by, the way we get by. All that's the way we get by, the way we get by, the way we get by. That's the way we get by, the way we get by, the way. That's the way we get by, that's the way we get by. Io. Avete sentito delle voci? Siamo tornati in diretta li abbiamo e abbiamo una chiamata per partecipare al nostro quiz. Sì. Ecco, sentiamo delle voci. Pronto? Pronto? Sì. Chi c'è? Chi c'è al telefono? Le voci fanno curare però, eh. Pronto? Pronto Toronto? Pronto? Sì. Con chi parliamo? Con chi abbiamo il piacere? Ciao. Con Assembramento. Ciao. A completo. Che bello. No, manca qualcuno. Quasi al completo. Io ringrazio Assembramento perché loro mi hanno permesso di introdurmi alle serie TV in un qualche modo. Che bello, grazie Assembramento. È colpa vostra se ero piano a dire qui. Introdurmi. È colpa vostra, sappiatelo, se io sono qui dentro. Sappiatelo, grazie. Non introdurremo più nulla. Non è mai colpa nostra, scusa. Perché avete introdotto Piero alle serie TV e lui adesso fa un programma sulle serie TV. E ora sono introdotto qui. Grazie a voi. Ma noi siamo qui per fare un quiz, siamo gente seria, sì. Abbiamo trovato la domanda, vero Presidente? Certo, abbiamo trovato delle belle domande, abbiamo ben tre domande. Bene. Vincete la stima del conduttore e una tazza virtuale, eventualmente. Sì. Eventualmente, se Tommaso riesce a produrla. Se sapete, ovviamente, rispondere alle domande. Ok, cominciamo. Ma con anche la... no. Allora, su, seri, partiamo con la prima domanda. Vai Leo. Allora, vediamo un po', questa è facile. Allora, del cast di quale serie per adolescenti fece parte anche la figlia del produttore che la creò? Che domanda, messa malissimo. Questa mi sa di raccomandati. Scusami. Calma, abbiamo le alternative. Abbiamo quattro alternative. Vai, allora. Dunque, Dawson's Creek, The O.C., Buffy la vampiri o Beverly Hills 90210? Beverly Hills 90210. E la risposta è esatta. Abbiamo qualcuno che ha studiato. Aaron Spelling e Tori Spelling. Esattamente. Bravo, ma c'è tutto. Posso aggiungere? Grande ciao. Fateci la fava. Meno male che Skype ha censurato. Passiamo alla seconda domanda. Mi sento tanto Antonella Clerici con la borra. Allora. Seconda domanda, di quale fra le seguenti serie TV è protagonista Glenn Close? Quattro alternative anche qui. The Majors, Bored to Death, Entourage oppure The Good Wife? Problematico. Quanti abbiamo? 30 secondi. Lo sto Bored to Death. E la risposta è: dal 2007 la nota attrice americana Glenn Close è l'arcigno avvocato Patty Hughes in Damages. Quindi risposta sbagliata. Attenzione. Vabbè, si allontana la tazza virtuale. Vabbè, questa era difficile. Però adesso abbiamo quella per la stima. Esatto, attenzione. Quella per la stima. E comunque questa dovrebbe essere un po' più semplice. Sono sicuro che la sapete. È una serie TV prodotta da Ridley Scott che racconta le vicende dell'agente dell'FBI Don Epps e di suo fratello Charlie, professore e genio della matematica. Di quale telefilm stiamo parlando? Numbers, è inutile che la dite le cose. Esatto. Sono bravi, è vero. Vabbè, comunque la stima se la guadagnano. Esattamente. Bene, non vincete una tazza virtuale che non esiste, ma vincete la stima di tutte e due. Ho avuto paura che se si chiarisse, non vincete un'emerita tazza. No, un'emerita tazza. Se ci conosceste, non ce la concedereste così facilmente. Siete sicuri, eh? Lui vi conosce, io ho paura. Però, Piero, notare l'italiano corretto, però. Esatto. Che bravi ragazzi, non hanno nemmeno ruttato in diretta. Hanno ancora fatto, ma io sono pronto a... Li ho abbassati. Io andrei via. Volevo solo dire che c'è sempre tempo. C'è sempre tempo, vabbè. Okay. Com'era il panuozzo? Qui si fanno discussioni così. Siamo in diretta globale. Uso privato del mezzo pubblico, signor Poli. È pubblico. Siamo sul pubblico. Sei sul pubblico. Ma allora censuriamoli. Ok. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie ragazzi. E ora? Ciao. Andiamo con Dave Strang. Maybe you are qualcosa che non riesco a leggere. Maybe you are coming down with it. Sta venendo il mal di mare. A questo punto è arrivato il momento che molti di voi aspettano da tanto tempo. Le coccole. No, gli spoiler. Spoiler. Ora Tommaso, siccome l'abbiamo mandato a Marsiglia, sì, perché lui usava sempre quel maledetto tasto spoiler e lo mandava tutti. Spoiler. Ora, per sedarlo, l'abbiamo mandato a Marsiglia. In questo modo lui non può interferire con quello che io faccio in radio, quindi noi non mandiamo questa volta la sigla dello spoiler. Maledetto. Lo so. Sei perfido. Ma veramente, cioè, pessimo. Dunque. Se invece la mettessi io. E tanto non c'è. Ah. Non l'ho portata. Non l'ha portata proprio. È malefico, cioè. Attenzione. È triste. È malefico, è cattivo. È il malvagio. Cioè, come tutti voi sapete, sei un genio del male. La parte di spoiler è quella in cui noi stiamo zitti, lasciamo parlare in inglese e nessuno dirà cosa stavano facendo, cosa stavano dicendo. Se lo capite è bene, altrimenti è solamente uno spoiler così, che comunque non vi rovina il resto della serie. Dunque, oggi parliamo di Dexter, la stagione 5, l'episodio 9. Cosa sta succedendo nella scena che andremo a guardare? Ci sono Dexter e il padre, che è morto, ma è sempre vivo nei suoi pensieri, quindi ogni tanto si manifesta. Sì. C'è questo fantasma del padre con cui lui parla e si confronta. Sì. E appunto si confrontano e c'è qualcosa di nuovo rispetto alle solite paranoie che il padre fa a Dexter. Ascoltiamocelo. Solo se parte, noi ce lo ascoltiamo con gusto. Vai! I can't believe it. I don't want to hear it, okay? This isn't your business, Dexter. Don't get involved, Dexter. You put too much at risk, Dexter. That's not what I was going to say. I'm proud of you. You are? You protected Aster. Put yourself out there for another person. I had no idea you had that in you. I underestimated you. Assumed you were a monster when you were capable. And so much more. If only I'd seen that, maybe I wouldn't have led you down this path. Però. Ok. Però. Tommy, l'hai sentito? Drammatico. No. Non hai sentito? Non l'ho sentito questo. Noi invece sentivamo te con i tuoi maledetti tasti. Devi sta fermo. Se no non ti tengo più in diretta. Oh. A parte questa piccola paranoia. Ora invece andiamo a guardarci lo spoiler di Grey's Anatomy. Questa parte qui è abbastanza breve. Vi dirò, il mio coinquilino ha cominciato la settimana scorsa a vedere Grey's Anatomy. Il tuo coinquilino quale? Il tuo coinquilino con i capelli o senza? No. Quello meno peloso. Quello meno peloso. Quello normale. Quello normale. Ci sta ascoltando, capello 35, ciao. E che ha detto? Che ha detto? Gli piace? No, ieri ero lì che preparavo la mia cena e stava lì e commentava mentre stavo guardando una puntata e diceva, certo che dopo la quarta serie si incasina tutto quanto. E dico, ma non lo so, ma da quanto tempo è che hai cominciato a vederla? Ma tu sei già alla quarta serie? È una settimana che vedo Grey's Anatomy. Sei già alla quarta serie? No, veramente sono alla sesta. È in pari, in pratica. È praticamente sì, è messo in pari. Sì, beh, questa è fame di... Potrebbe essere un degno seguace degli spacciaserie. Praticamente sì. Ma lui ci segue, il tuo coinquilino? Beh, sei a casa forse. Però adesso non vedo tramite nessuno. Capello 35 forse ci sta seguendo. Sì, salutiamo il tuo vicino. Salutiamo tutti. Salutiamoli tutti. Ciao a tutti. Perfetto. Quindi, cosa sta succedendo in questo episodio che il tuo vicino non ha visto perché della settima tuo coinquilino non ha visto perché della settima stagione, episodio 10, ci sono Lexi e Mark Sloan, che come tu sai benissimo, prima stavano insieme, erano adesso invece no. Sono un po' freddini. Che si ritrovano al bar dopo una lunga giornata di lavoro. Si sono scongelati. E, per una scommessa, diciamo. Per una scommessa. Si parlano. E poi vediamo che succede. No? Sì, noi vediamo. Facciamo ascoltare. I know I agreed to have a drink with you, but as I walked here, I realized how unfair that was. You know, it's unfair to you, it's unfair to me, because really nothing has changed. I mean, you're still in a very different place in your life than I am, and you want different... And there's a kiss. Per completare lo spoiler in inglese, no? Oh, mamma mia. Ok, a questo punto, nella nostra triade di... spoiler section, adesso andiamo a guardare House, la serie TV, chiaramente la stagione è la settima, l'episodio è l'ottavo. Cosa sta succedendo? È un ballo di un matrimonio, ci sono Taub e la moglie che sono invitati e stanno ballando e si confrontano su un argomento che è venuto fuori da poco nel loro matrimonio e che cioè la moglie ha un corrispondente al quale racconta tante cose e Taub sentiamo, dirà quello che dirà. altrimenti spoileriamo troppo, cosa dirà? I went through your emails. There's nothing in there that's inappropriate. We're friends, Chris. But you tell him things that you've never told me. I tell him things I can't tell you. That's the point. Not things about me, about you. About your new job, about coloring your hair, about how you felt when your mother died. I want to know those things. He's easy to talk to. He's open and honest. He makes me feel safe. Sounds like you love him. I am not having an affair. He lives in Oregon. I've never met him. I probably never will. You are having an affair, an emotional one. Are you equating what I'm doing with what you did? I've done terrible things to you, and I deserve all of this and more, but you can't pretend that what you're doing isn't hurtful. Ma però, hai visto quante belle cose si imparano? Insomma, beh, ho imparato l'inglese, mettiamola così. In effetti questo, con gli spezzoni lunghi, si riesce anche a fare un certo tipo di esercizio, diciamo. Sì. Magari. Beh, ma raccomandano, voglio dire che raccomandano l'ascolto delle serie TV, cioè, in inglese. Siamo una radio educativa, Leo. Sì, in teoria ti dicono anche che se metti i sottotitoli in inglese, mentre ascolti in inglese è meglio, però almeno sai quello, capisci quello che dicono, nel senso, fermi l'immagine e leggi. Però a lungo andare, anche con i sottotitoli in italiano, quando poi li togli, riesci comunque a seguire. Vero? Sì, sì, cioè io adesso riuscivo a capire quello che stavo dicendo. Sì. Io mi ricordo di un amico, infatti, che effettivamente ha fatto questa cosa ed è morto. Riprenderò a vedere questo. No, Piero, non morire. No, no, poi come facciamo? Tu stai a Marsiglia, non puoi far partire qua il meccanismo infernale del computer, Graziella. Soprattutto, il problema è, se muore lui, chi sta qui? Io scappo. Sappiatelo, io scappo. C'è la maledizione di ci rimango. Comunque, anche per questo giovedì sera, la nostra puntata, il nostro tempo è finito. Noi vorremmo sempre dare la linea a Cinemando. Infatti. Ma Cinemando ci viene a mancare. Cinemando ci manca. Ci manchi tanto, Cinemando. Sì. Ci manca Cinemando. Sì, sì. È vero, ci manca tanto così per Cinemando. Bea mi dice di non morire. Salutiamo Bea, che credo sia l'ospite della scorsa puntata. Ciao, tutti Beatrice. Gli ospiti, ormai tutte carne e pesce. Perché la gente viene, vede com'è e poi ci vuole bene, continua a seguirci. È l'affetto della gente di casa. È l'affettato della gente di casa, non è l'affetto. Certo che le leggo, rispondo a Beatrice, che mi chiede se leggo le cose in chat. Noi siamo qui e leggiamo anche le cose in chat. Esatto, vero, Leo? Leggiamo tutto, leggiamo le cose in chat, leggiamo quotidiani, leggiamo... Siamo informatissimi. Quando stiamo qua dentro, voi non lo sapete. Tu hai letto tutti i 272 fascicoli nuovi che sono usciti sull'intercettazione, no? Ho letto anche le torri di guardia, cioè, sì, ho letto tutto. Mia nonna le portava a casa per casa, è venuta anche a casa tua, evidentemente. Tua nonna portava torri di guardia? Beh sì, mia nonna era dell'altra parte, nell'altra squadra giocava. Leggo anche il Reader's Digest e soprattutto il catalogo Postal Market. Comunque abbiamo capito male, non era la Bea che dicevamo noi, ma è bensì la Bea del collegio. E tu saprai benissimo chi è, ma i nostri ascoltatori no, quindi chiudiamo qui, salutiamo, ciao. E guarite comunque. Non... Sì, mi raccomando, non appestateci, non è bello. Se non è, appestilente. Quindi, sciocco. Oddio, qui le immagini partono, la radio colori, RGB, io ci vedo. Direi... che se Tommaso vuole dire qualcosa, vuole salutare anche sì, lui. Infatti, vuole aggiungere io voglio qualcosa. Una cosa. Cosa vuoi dire? Volevo aggiungere che la tazza virtuale non è più virtuale, ma esiste. Esiste la tazza virtuale. Per cui la prossima per volta cui i prossimi, mi rivolgo alla camera 216. Le persone a questo punto possono veramente vincere qualcosa. Però per adesso non c'è comunque nessuno in grado di vincere, ma vabbè ancora... Assembramento è un po' deluso, eh? Beh dai, su, ci è arrivato un passo. Dai, è arrivato tanto così. Non l'abbiamo nemmeno aiutato, noi eravamo onesti, cioè, eravamo onestissimi. Non abbiamo nemmeno fatto le domande. Potevamo concordare la domanda e invece prima. No. Hanno cercato di corromperci. Diciamolo. E invece noi integerrimi proprio. E invece lì, no. Abbiamo detto no. Al massimo potete fare un root in diretta. Infatti, che non l'hanno fatto. Che non l'hanno fatto, l'hanno fatto poi dopo. Però sono stati delicati. Sì. Hanno salutato con un ciao gutturale. Quindi a tutti quelli che ora sono in chat, cioè Autoscatto, Willy dall'Olanda, Scasse Spacci che siamo noi, Bea dalla camera 216. Vabbè, anche quelli che ci stanno ascoltando che non sono in chat. Potete chiamarci la prossima settimana per partecipare anche voi al quiz e cercare di vincere la tazza che oramai non è più virtuale, è una tazza reale che Tommy ha creato. È una tazza realmente virtuale, cioè non è così virtuale che non avete niente, è virtuale che qualcosa vi arriva a casa o in una parte della vostra casa. Ecco appunto, a questo punto... Ti arriva, basta. Sì, arriva. Non so se può essere utile, però arriva. È un gettino di pochi qualcosa, non diciamo altro. Quindi Leo, tu chi saluti adesso? Io volevo salutare Giovannona Coscialunga. Che è tua amica di famiglia da tanto tempo. No. Sì, più o meno. Tra l'altro Giovanone la coscia lunga è partecipe di, cioè fa parte di un ciclo che volendo potrebbe anche essere inteso come serie TV, quando in realtà è una serie film, un ciclo film, è un ciclo film. Però, diciamo, ci sta un po' col tema, sì, no? Potrebbe essere gli spazi a serie anni 70 o qualcosa del genere. Tra l'altro ti annuncio che tra noi stiamo, sì, anche confabulando di tra noi chi tra noi, io, voi, Tommaso e qualcun altro esterno qualche che vuole fare l'ospite. Stiamo pensando di fare una serie di puntate, cioè una puntata sulle serie TV italiane revival, tipo, non so se te lo ricordi, il Vigile Urbano di Lino Banfi. Come non me lo ricordo, noi siamo vigili tipo quelli, oppure sono, che ne so, l'Indel Brigadiere, cioè queste cose così un po' tra lo tra storico il e il trash, tra il sacro e il profano, magari un giorno, diciamo, un po' sul trash, però belle, cioè io le guardavo, ero scemo, ma le guardavo. Io le guardavo perché non avevo alternativa a quell'età. Cioè, i miei genitori guardavano Rai 1, quindi dovevo guardarlo. Quindi il Vigile Urbano ci sta. Il Vigile Urbano. Va bene, allora io, Tommaso e Leo salutiamo tutti. Ciao leggiamo a tutti! Perché leggiamo in chat, purtroppo, e quindi... Le cose, abbiamo Gigia che è arrivata adesso, cioè. E si è persa tutto. Lei magari vuole vedere, vuole ascoltare Cinemando. Cinemando non c'è. Ok, possiamo fare finta di essere Cinemando. Ciao a tutti, siamo Cinemando. Ma Gigia, io forse so chi è. Eh? Però lasciamo stare. È tua sorella? No. È tua cugina? No. È tua madre? Però è Beatrice. E Tommy risolve tutto con una sola parola, attenzione, con un solo nome. E quindi? Allora, io faccio partire l'ultimo brano di stasera, che è The High Strung, che cantano, che abbiamo già mandato con altri due pezzi, tra cui la sigla di Shameless, che tu ricorderai, mm-hmm, The Lucky Got. Uh-huh. Adesso mandiamo, se riesco a leggere, perché qui in questo programma c'è sempre un certo problema, la facciamo partire e poi la leggiamo. È Standing at the door of self-discovery, where the air is cold. The feelings are old, but you reconsider that.